Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per presentare il film Open Arms, La legge del mare di Marcel Barrena al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti, ciao Federico, ciao! Lo raccontiamo brevemente? La storia vera raccontata in forma di finzione delle vicende che hanno portato alla fondazione di Open Arms, appunto l'ONG che tutti conosciamo, e che nasce sostanzialmente dal desiderio, dalla visione di un uomo, che in questo caso appunto è Oscar Camps, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite in Italia, che ci ha raccontato poi anche in prima persona tutta l'esperienza che l'ha portato a fondare appunto l'ONG, e che di fronte a una tragedia decide che non può restare con le mani in mano e cerca in tutte le maniere, in tutti i modi possibili, di adoperarsi per fare quello che sembra impossibile, cioè andare in mezzo al mare a salvare delle persone che stanno affogando. Questa è la storia del film, è la storia di come una persona riesca poi a superare i propri limiti quando ha una visione più grande di sé, un obiettivo davanti, per quanto quell'obiettivo possa sembrare irraggiungibile. Quindi è un film molto emozionante, almeno noi l'abbiamo trovato molto emozionante e ci piaceva portarlo al cinema. Che tu sappia, come ha avuto origine questo progetto? È stato un lavoro di 5 anni, perché tra l'altro il film è stato poi girato nei luoghi reali, quindi al largo delle coste greche, al largo delle coste spagnole, e ha avuto origine perché il regista ha incontrato Oscar Camps e da lì insieme hanno cercato faticosamente di mettere insieme questa produzione, che è stata molto molto complicata, molto lunga dal punto di vista temporale, appunto vi dicevo che ha portato via quasi 5 anni, e non sarebbe stato possibile senza la voglia di Oscar di raccontare la sua storia, perché di fatto questo è. Quindi partendo da questo rapporto, con uno sforzo di produzione lunghissimo, sono riuscito effettivamente poi a mettere in piedi questo film molto ambizioso anche dal punto di vista del racconto, di come è messo in scena il racconto. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Due cose principali: la sincerità, nel senso che è un racconto che ti mette le cose davanti per quelle che sono, quindi non è un film pietista, non è un film agiografico, è un film onesto, sincero, emozionante, perché ovviamente chiunque almeno di noi ha visto il film si è emozionato, perché la storia appunto è una storia umana estremamente potente. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che va un po' a braccetto con questo è il fatto che è un film non strettamente politico, nel senso che non è un film che si scaglia contro quelli che la pensano diversamente dal punto di vista di Open Arms, e che si focalizza di più, come dicevo prima, sulla visione di un uomo e sugli sforzi che lui ha fatto contro tutto e contro tutti per riuscire a portare avanti quella visione, molto motivazionale, se dovessi usare una parola. Un'altra delle caratteristiche è che comunque mette in evidenza le responsabilità delle autorità, da Malta alla Grecia, alla Turchia e più in generale all'Europa. Sì, sì, cioè questo fa parte poi di quello che ti dicevo prima, cioè è ovvio che non è un film che si tira indietro e che ti fa vedere le cose per quelle che sono, e quindi facendoti vedere anche che ci sono delle sacche di responsabilità, cioè questo è piuttosto evidente, però anche qui lo fa con una maniera estremamente sincera, estremamente onesta, e quindi appunto non nascondendo niente, neanche queste cose, ok? Quindi sono assolutamente d'accordo con quanto dici. E come ricordavi all'inizio, del protagonista mette in luce anche la problematicità, il passato, insomma non è un eroe nell'accezione in cui viene solitamente espresso, ma è un uomo con tutti i suoi limiti. È esattamente quello che ti stavo dicendo prima, cioè non è un film agiografico, cioè che quindi racconta la storia di un santo senza difetti, senza turbamenti, senza problemi. È un film che racconta la storia di una persona che ha appunto appunto, come ti dicevo, una visione, ma che ha anche delle problematiche da mostrare al mondo. E questo lo rende molto sincero, molto vero, molto, molto onesto, ecco. Quindi è un'altra delle cose che assolutamente ho apprezzato e abbiamo apprezzato di questo film, e che credo abbia apprezzato poi anche il pubblico, al punto tale che comunque, come sai, il film ha vinto il premio, l'Audience Award, alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anche premio. Quello che fa la differenza è lo scatto che gli dà l'empatia verso le persone che soffrono, che cercano di attraversare il mare. Assolutamente sì, esattamente questo. È ovvio che ci sono proprio momenti del film dove questa cosa è evidente, soprattutto all'inizio del film, dove piuttosto che voltare lo sguardo da un'altra parte, ad un certo momento Oscar decide semplicemente di fare qualcosa, che è una cosa che può sembrare banale detta così, ma ovviamente non lo è, perché poi quel fare qualcosa diventerà la sua vita, in tutto e per tutto. Che distribuzione sarà? Saremo oltre le 200 copie. Un'uscita importante. Sì, sarà un'uscita importante, ci teniamo a portarlo nel maggior numero di cinema possibile, compatibilmente appunto con la situazione di mercato che magari dal punto di vista degli incassi non è particolarmente florida in questo momento, però crediamo che una storia forte come questa possa comunque interessare il pubblico, da qui l'idea anche di fare un'uscita consistente dal punto di vista delle copie. Per saperne di più ci dai dei riferimenti web? I nostri canali social, quindi pagina Facebook di Adler, la pagina Instagram di Adler e Twitter di Adler. Segnalo anche i canali social di Open Arms, l'associazione che ci sta supportando nell'uscita del film e che sta pubblicando anche già dei contenuti speciali realizzati direttamente per loro. Di questo regista sappiamo altro? So su cosa sta lavorando, ma non te lo posso dire. So su cosa sta lavorando, ma in questo momento, se te lo dico, mi ammazzo, per cui okay. Meglio che sto zitto. Il film Open Arms, La legge del mare di Marcel Barrena al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment che lo distribuisce. A presto! Grazie mille, ciao. Con Massimo Dorzi, regista del documentario Bosnia Express, in tour da martedì 1 febbraio 2022. Ben trovato. Ben trovati a tutti, ben trovati spettatori di Radio Onda Rossa. È sempre un piacere, era un po' che non ci si sentiva, ce ne parli? È vero un po' che ci sentiva, perché questo film, Bosnia Express, che è un viaggio in tutti i sensi, ha richiesto un tempo anche interiore per maturare. Come Federico sa, ma insomma molti di voi sanno, chi ascolta la radio, io ho un rapporto con la Bosnia decennale, perché ho già realizzato lì un paio di film, soprattutto ad Isola, Storia di Mille Anni, sulle comunità Rom. Evidentemente il rapporto con la Bosnia non si era esaurito, e ho sentito a un certo punto di doverci ritornare. Io dovevo dire ancora qualcosa sulla Bosnia e forse la Bosnia doveva ancora dire qualcosa a me. Ho letto questo libro di Luca Leone, Bosnia Express, mi ha ispirato, almeno mi ha dato lo stimolo per tornare a rifare quel viaggio e raccontarlo in un modo diverso, in qualche modo diverso anche dal libro, perché volevo raccontare il rapporto e il conflitto tra religioni e anche stupro etnico. Io questo è il taglio che ho voluto dare al film, che in qualche modo ne segna anche l'originalità del progetto, perché fino adesso questo aspetto è sempre stato molto, molto, molto trascurato, e in questo senso uno ci può vedere anche un complesso di colpe, in un certo senso. Come è strutturato il lavoro? Mi piaceva del libro questo viaggio a stazioni, a tappe, perché poi appunto il pretesto è questo viaggio in treno, Bosnia Express collegava ai tempi Sarajevo a Belgrado, ovviamente il treno, quell'espresso non esiste più, perché racconta un'altra epoca, prima dell'89, del crollo del muro di Berlino. Mi piaceva però questo procedere a stazioni, quindi entrare, incontrare, scendere in una stazione, incontrare un mondo, incontrare volti, persone che potessero raccontarmi una storia. Quindi è un film a stazioni, come un po' erano strutturati un po' come dire racconti medievali di un tempo, ma questo mi ha permesso a un certo punto di strutturare un percorso, un viaggio fisico, geografico nella Bosnia di oggi, ma allo stesso tempo di raccontare anche un percorso intimo, perché c'è dentro anche il mio viaggio, il mio modo di vedere quella realtà, perché in Bosnia vedere, pensare e sentire è sempre difficilissimo. Quindi la grande costruzione, la grande struttura, al di là della linearità del viaggio, è stato proprio quello di strutturare e mettere insieme ciò che vedevo da ciò che sentivo e da ciò che pensavo. Ecco perché poi ho avuto bisogno della voce, che inizialmente non era pensata, ma la voce del racconto di colui che raccontava, che so che l'autore stesso, diventa poi fondamentale e strutturante nell'opera stessa. Che bagaglio ti lascia questa esperienza e questo sguardo? Federico, enorme, enorme, questo è stato un viaggio enorme, enorme perché tocca tante, lo sto sentendo anche della reazione del pubblico e della critica, c'è un discorso sulle donne, forse legato alla guerra e anche rapporto tra religioni e donne che forse in questo modo, non so se è stato toccato prima, ma lo mette in evidenza in un modo importante, penso, importante. Come si fa a trasformare una società laica, seppure piena di contraddizioni, in una società teocratica? Ecco, si distruggono le donne. Questo è un punto fondamentale che abbiamo visto in Bosnia, forse per la prima volta in tutta la sua drammaticità e evidenza, ma che in qualche modo precorreva quello che sono stati i 30 anni successivi. Quello che abbiamo visto in Bosnia, poi l'abbiamo visto propagarsi a macchia d'olio in tutti i continenti, con l'11 settembre, in Occidente e in Oriente, quindi è un punto fondamentale, perché se il Novecento uno dice che è il grande secolo del comunismo, del socialismo, eccetera, ma è anche il grande secolo della rivoluzione e della liberazione delle donne. In quell'attacco in Bosnia non si voleva solo attaccare un ideale, ma si doveva attaccare anche l'identità delle donne. Che percorso farà questo documentario? Devo dire che a differenza degli altri miei progetti che sono stati e sono totalmente indipendenti, tu lo sai bene, questo film in qualche modo ha avuto un percorso diverso perché è stato riconosciuto come un film europeo fin dall'inizio perché Media ha supportato lo sviluppo, il Ministero gli ha riconosciuto quindi l'interesse nazionale, Cinecittà Luce è produttore associato e distributore Italia, ecco per rispondere alla tua domanda, RaiCom lo sta distribuendo in tutto il mondo, ancora non posso anticipare ma avrà un percorso anche internazionale importantissimo. Non ci dimentichiamo che a breve ricorrono i 30 anni dal conflitto in Bosnia, il referendum del 3 marzo del 92 segnò la deflagrazione in Bosnia, mentre l'anno precedente era già scoppiato in Croazia, come sappiamo. Adesso il film sarà distribuito in sala e quindi febbraio io lo seguirò a Torino, Firenze, poi Pisa, poi Roma, Udine, Bari, Matera, Potenza, Perugia, Bologna, dove chiuderemo, Palermo, forse farà un grande evento col sindaco Lelu Orlando proprio il 3 marzo, quindi avrà un percorso capillare. Perché questo non è un film di memoria, non è un film su ricordo, questo è un film in continuo presente. Io questo ci tengo a ricordarlo perché non è un film che guarda a 30 anni fa, è un film che guarda a oggi e attraverso oggi si può raccontare anche la storia recente della Bosnia, ma non solo. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Prima di tutto la pagina di Cinecittà News che segue il film ovviamente lo promuove sul web, c'è la pagina Facebook, quindi Bosnia Express _ film, quindi la pagina dove potete seguire tutto ciò che succede, le tappe e tutto ciò che esce sul film, poi c'è anche ovviamente Bosnia Express film, la pagina Instagram. Per i romani vi aspettiamo venerdì 4 alle 19:30 al Cinema Farnese per la prima romana, spero di poter condividere con voi insomma anche l'esperienza di questo viaggio, che non è importante solo per me ma per un intero popolo. Il documentario Bosnia Express in tour da martedì 1 febbraio 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Massimo Dorsi. A presto! Grazie, a presto! Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario Il senso di Hitler di Petra Epperlein e Michael Tucker al cinema da giovedì 27 gennaio 2022. Ben trovata! Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ce la presenti? Il senso di Hitler è un documentario uscito appunto il 27 gennaio, tra l'altro possiamo dire con orgoglio che in questo periodo in cui quasi tutti stanno rimandando le uscite cinematografiche abbiamo voluto comunque portare questo film al cinema in un momento difficile, alla giornata della memoria. Il film ha avuto un buon successo, sta continuando la sua programmazione. I registi Petra e Michael hanno voluto girare questo film ispirandosi a un libro edito nel 1978 e mai edito in Italia. Sembrerebbe un po' strano che nel 2021 si faccia un film sul libro del 1978, ma non lo è per niente, nel senso che questo libro presenta un argomento che purtroppo, tristemente, ai giorni nostri sta tornando molto attuale, ovvero il fascino dei neonazionalismi, dei suprematismi che stanno prendendo piede in tanti paesi del nostro mondo, e quindi in particolar modo anche il fascino che Adolf Hitler possa continuare ad avere anche sulle nuove generazioni. Questa è un po' l'analisi che viene fatta dai due registi attraverso la voce di vari ospiti, da storici a scrittori e esperti insomma dell'argomento, attraverso un viaggio in 9 paesi ripercorrendo un po' tutta la storia e la vita di Hitler, dai suoi fallimenti di gioventù. Era un aspirante artista, è stato rifiutato più volte dall'Accademia d'Arte dove ha cercato di entrare, ha poi la sua invece ascesa a livello politico e fino ad arrivare a quello che ha fatto nella sua vita. Com'è strutturato il documentario? È strutturato attraverso la voce e gli interventi di vari ospiti che vengono intervistati dai registi. Abbiamo ad esempio scrittrici, scrittori, la scrittrice Deborah Lipstadt, lo storico britannico Sir Richard Evans, un altro scrittore, autore Martin Amis, che appunto cercano di spiegarsi questo fenomeno tristemente tornato attuale del fascino che i nazionalismi, il neonazismo, Hitler stesso stanno tornando a influenzare soprattutto le giovani generazioni, non solo, ma anche tristemente le giovani generazioni. Ci sono molti paragoni anche con Donald Trump, di come insomma le caratteristiche psicologiche di Hitler siano vicine a quelle che abbiamo avuto modo di notare in Trump, ovvero un assoluto egoismo, egocentrismo, mania di potere, anche schizofrenia in tante cose, il fatto di divulgare fake news, bugie gratuite senza porsi il problema di stare mentendo al proprio popolo. Quindi ci sono tante similitudini. Anche ecco, c'è un bel passaggio nel documentario in cui viene descritto l'utilizzo del microfono ai tempi di Hitler, come questo strumento potesse essere una sorta di amplificatore non solo della voce di Hitler ma anche delle sue idee assurde, e che solo per il fatto che queste venissero amplificate attraverso il microfono diventassero più vere. E questo vediamo che è una pratica che viene tuttora utilizzata da alcuni dei leader politici e non solo politici, e che proprio grazie a questa pratica si riesca ad avere più attrattiva anche presso le persone che stanno ascoltando. Ed è un po' una sorta di metafora dei nostri social media, proprio perché possono amplificare le notizie, anche se sono notizie non vere, fake news, solo il fatto di essere amplificate e portate ovunque diventano automaticamente vere. Che impressioni ne hai ricavato da questo lavoro? Tante, e non c'è una linea di pensiero unica, nel senso che anche poi ascoltando il pubblico in sala, abbiamo fatto alcune proiezioni evento con dibattito, con ospiti che hanno presentato il film, che lo presenteranno anche nei prossimi giorni, sono emerse tante idee anche contrapposte. Ovvero di come insomma questo fascino che ha portato Hitler e tutto quello che ha creato dietro di sé sia in qualche modo tuttora molto molto attuale, tuttora molto molto pericoloso. Sono rimasti tutti abbastanza spiazzati, ecco, da questo documentario, non tanto per quello che ha raccontato, perché comunque non racconta niente di nuovo a livello storico, ma quanto come riesce a riportare qualcosa che dovrebbe essere scontato ma che non lo è per niente. I registi fanno tutto un ragionamento sull'utilizzo delle immagini, sulla pericolosità delle immagini che sono divulgate anche attraverso l'azione di propaganda stessa di Hitler in quegli anni, quindi tutti i documentari film di propaganda che lui stesso ha commissionato, attraverso l'arte, perché lui era un grande, appunto, come dicevo prima, un grande appassionato d'arte, e ha influenzato anche tanti artisti, pittori dell'epoca che hanno riportato attraverso i loro quadri volontariamente e involontariamente certe idee di potere. Quindi tutto questo ragionamento sul fatto che le immagini divulgate da quegli anni arrivate fino ai giorni nostri abbiano comunque influenzato tanto l'opinione pubblica e continuano a farlo oggi soprattutto attraverso i social media senza parlare direttamente delle idee di Hitler, del nazismo, insomma quello che lui celebrava, e che quindi questo sia ancora più pericoloso perché non essendoci un collegamento diretto ma essendoci un messaggio sottile riescono a penetrare ancora più in modo violento e forte nelle coscienze e nella sensibilità delle persone, soprattutto i giovani che si lasciano comunque influenzare facilmente da questa idea di potenza, quando le cose vengono urlate, vengono dette in modo perentorio, quando si trova un nemico comune senza ragione ma giusto perché c'è qualcuno che deve avere la colpa, sono tutti dei modi di pensare che trovano campo fertile anche a livello di indole di natura umana e quindi nelle coscienze più deboli, meno strutturate, con meno cultura, possono essere ancora più pericolose. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale? L'elenco delle sale che programma il film ancora nei prossimi giorni si trova sul sito wantedcinema.eu, alla pagina dedicata al film Il senso di Hitler, oppure sui nostri social Facebook e Instagram, sempre Wanted Cinema, trovate sia riferimento alle sale che informazioni sul film, trailer, poster, clip. Il documentario Il senso di Hitler di Petra Hepperlein e Michael Tucker al cinema da giovedì 27 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Buona visione a tutti! Con Ugo Piva e Michele Bertini Malgarini, registi del documentario Essere Hikikomori, la mia vita in una stanza, on demand e in streaming. Bentrovati. Grazie. Ciao. Come lo presentereste? Un modo per presentare il nostro lavoro potrebbe essere quello di un'opera che cerca di indagare la solitudine in un'epoca invece iperconnessa ed ipercinetica. Cerca di indagare la solitudine anche in un periodo in cui tutti, in un certo modo, abbiamo vissuto una certa forma di isolamento, che è stata quella del lockdown. Come ha avuto origine questo lavoro? Dal fatto che durante la pandemia di luglio 2020 io e Ugo stavamo lavorando a dei progetti legati alla solitudine, alla ricerca di se stessi. Volevamo lavorare su chi fa una scelta di solitudine in questo mondo abbastanza confusionario. Avevamo scritto un progetto pure sulle navi cargo, cioè su questi marinai che vanno fuori per mesi e mesi e mesi. E poi un giorno è uscito questo articolo sul Corriere di questo ragazzo e conosciamo già il fenomeno, però ci ha abbastanza fulminati e ci siamo interessati all'argomento Hikikomori. Abbiamo contattato Marco Crepaldi, che è il presidente dell'associazione Hikikomori, e da lì è partito tutto. Ci siamo iscritti al Solinas, siamo stati selezionati e insomma da lì è partito tutto il flow. Come lo avete strutturato questo lavoro? Abbiamo innanzitutto ovviamente fatto un lavoro di ricerca per scrivere il trattamento, che poi ha vinto il premio documentario del Solinas, e abbiamo innanzitutto cercato, e questa è stata una delle parti più difficili, i ragazzi con cui lavorare, perché per definizione i Hikikomori si isolano dal resto del mondo, quindi sono molto molto difficilmente raggiungibili, non sai dove sono, non sai come trovarli. Poi siamo stati aiutati dall'Associazione Italiana Genitori Hikikomori, che ci hanno segnalato i nomi di alcuni ragazzi che erano leggermente più disponibili di molti altri, e piano piano abbiamo instaurato un rapporto con loro, e anche quello è stato un processo insomma abbastanza lungo, perché non è facile entrare in qualche modo nei loro mondi, insomma trovare la loro fiducia. Una volta che siamo riusciti ad instaurare questo rapporto, ci abbiamo parlato un po' di volte, siamo andati da loro quando hanno accettato di incontrarci, li abbiamo incontrati, e su questo abbiamo iniziato a scrivere. Come è strutturato il documentario? Con interviste, riprese di loro quotidianità? Il documentario racconta la vita di quattro ragazzi Hikikomori durante un arco di tempo abbastanza lungo e racconta il loro quotidiano. Poi naturalmente abbiamo fatto un estratto, abbiamo passato diverso tempo con loro, e naturalmente poi nel documentario c'è un arco della storia, insomma siamo partiti da un punto, siamo arrivati ad un altro punto, grazie a Dio, perché abbiamo provato a lavorare con loro su delle tematiche un po' più fragili per capire se c'era qualcosa che potesse aiutarli a uscire, no? Infatti c'è un tentativo da parte di ogni ragazzo di superare questo problema. Che impressioni ne avete ricavato? È stata una grande scoperta da un punto di vista umano, perché in questi quattro ragazzi abbiamo trovato delle persone estremamente, estremamente sensibili ed intelligenti, che ci hanno fatto veramente riflettere come qualcuno, in un mondo in cui tutti cercano di essere visti, preferisca invece andare nella direzione completamente opposta, quindi non essere visto. E soprattutto a me personalmente, io dico che mi hanno lasciato anche delle amicizie, perché io mi sono davvero affezionato a loro quattro, li considero amici e spero che loro facciano altrettanto con me. Io ho costruito un ottimo rapporto con i ragazzi, cioè un rapporto quasi personale di amicizia, e poi quello che mi è rimasto dentro, una forte umanità. Ho cambiato il mio punto di vista su determinate cose, penso che si possano fare anche scelte diverse, e loro hanno fatto una scelta diversa, perché hanno scelto di isolarsi, insomma, di fare il contrario di quello che fanno tutti, no? Cioè, se pensi che tutti i ragazzini adesso vivono per essere, per apparire, per stare online, loro invece vivono per scomparire, quindi c'è chi fa delle scelte diverse, quindi sono contento di aver conosciuto questi ragazzi. Il documentario Essere Hikikomori, la mia vita in una stanza, è on demand in streaming. Un saluto e un ringraziamento ai registi Ugo Piva e Michele Bertini Margarini. A presto! A presto, grazie. Ok, grazie, ciao, a presto veramente. Con Matteo Paba per presentare il suo film Dopo le nuvole al cinema da lunedì 31 gennaio 2022. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ce lo presenti? È un progetto che nasce 2 anni fa, durante un periodo di collaborazione con la Cineteca di Bologna. Vivevo a Bologna e ho iniziato a pensare alla città di Rimini in quanto stava per esserci il centenario della nascita di Federico Fellini, e quindi con il mio collaboratore e coautore Rustam Ibrahim, il direttore della fotografia del film, abbiamo iniziato a pensare a una storia che potesse coinvolgere la Rimini di oggi dal punto di vista di un creativo, appunto chiedendoci la domanda come sarebbe la vita di un giovane creativo come era Fellini da adolescente oggi. Quindi abbiamo ambientato il film nel 2019 per motivi quasi ovvi, e quindi avendo ovviamente ammirato e apprezzato l'opera di Federico Fellini, ci siamo chiesti appunto com'è un gruppo di giovani riminesi, anche pensando ai Vitelloni, a Marcordi e queste opere, come vivono oggi la fine dell'adolescenza e l'inizio della vita adulta, in un contesto anche storicamente diverso ma anche simile per molti aspetti. Quindi questa era la domanda che ci ha motivato. Abbiamo presentato questo film dopo un lungo percorso anche travagliato, con grande soddisfazione e orgoglio, ringraziando sicuramente la città che ci ha dato un supporto anche inaspettato, perché noi non avevamo alle nostre spalle grandi produzioni o un grande passato nel cinema, nel senso che è una produzione parecchio giovane, gran parte degli attori ha la prima esperienza, e quindi è stata un'esperienza veramente sorprendente per molti aspetti, nel senso che ha dimostrato a noi e spero anche agli altri che in Italia c'è spazio per il cinema indipendente, per il cinema emergente, ovviamente con la dovuta determinazione e voglia di mettersi in gioco. Come lo avete strutturato? Volevamo fare una storia corale, volendo guardare al problema comune di questi adolescenti appena finito la scuola superiore, quindi dopo la grande estate della maturità. Quindi abbiamo pensato di concentrarci sulla fine dell'estate, dopo la maturità, e quindi quando i gruppi iniziano a dividersi, quindi quando il gruppo che ci ha accompagnato durante l'adolescenza inizia a essere più individualista, se vogliamo, nel senso che ognuno prende la sua strada e deve prendere le sue decisioni, quindi si confronta con alcuni addii, e quindi abbiamo voluto concentrare la storia non su un personaggio solo, ma su 6 personaggi, 3 ragazzi e 3 ragazze, che appunto affrontano questo autunno di decisioni, di grandi cambiamenti, chi parte, chi resta. E quindi il film inizia in realtà con una fine, nel senso che racconta di una fine, ma anche di inizi, nel senso che inizia la loro vita adulta. Quindi ci siamo concentrati sulla Rimini invernale, che nel cinema è stata rappresentata non solo da Fellini, ma anche abbiamo ammirato il film di Valerio Zurlini, La prima notte di quiete, quindi abbiamo voluto guardare questa linea anche un po' poetica, quindi di quando gli ombrelloni vengono chiusi, le spiagge vengono liberate, che cosa succede? E quindi la struttura è questa, l'arrivo della decisione, quindi c'è chi resta, c'è chi parte, chi inizia a lavorare, chi inizia l'università. Ovviamente questo non ha potuto che coinvolgere molti discorsi che affliggono anche i giovani di oggi, quindi l'insicurezza, il precariato e le pressioni da parte delle famiglie, insomma cose che abbiamo ritenuto essere anche abbastanza universali per quell'età. Quindi sì, è un film di come cambiano le cose alla fine della nostra adolescenza. Ecco. Che tipo di distribuzione avete scelto? Abbiamo avuto la fortuna che dopo aver girato qualche scena abbiamo contattato una casa di produzione che è la Toed Film di Claudio Bucci tramite un altro produttore, Roberto Bessi, che hanno una visione. Noi gli siamo estremamente grati e rispettiamo il loro lavoro in quanto hanno deciso di sostenere il nostro film e quindi di produrlo e di distribuirlo. E quindi adesso appunto abbiamo una distribuzione nelle sale che è iniziata in una cornice bellissima che è il cinema Fulgor di Rimini. Nelle prossime settimane c'è la possibilità di partecipare a qualche festival in Italia e all'estero, e poi ovviamente nelle sale che ci ospiteranno ci sarà una distribuzione in sala e poi potenzialmente sulle piattaforme. È ancora in fase di sviluppo tutto questo. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web? La pagina doidfilmsrl.com/film, poi c'è la pagina di PRF che è il collettivo con cui abbiamo prodotto questo film, quindi productions.prf. Il film Dopo le nuvole al cinema da lunedì 31 gennaio 2022, un saluto e un ringraziamento alla regista Matteo Paba. A presto. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le consuete novità mensili. Ciao Paco, come va? Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere ritrovarsi per questa prima chiacchierata del 2022 sulle novità di OpenDDB e passo subito a raccontarvi un po' le novità che accadono sul nostro catalogo, che vi ricordo essere al sito www.opendb.it. E anzitutto vi segnalo la tournée tuttora in corso del nostro film targato SMK, I'm Still Here, che racconta la storia dell'associazione Plus, storica associazione di Bologna, che si è occupata negli anni e che fa tuttora di affrontare il tema dell'HIV sia da un punto di vista dell'attività di consulenza e di supporto che anche di prevenzione. È un film che è uscito il 1 dicembre dell'anno scorso con un sold out su Bologna e adesso sta facendo appunto il tour nelle sale italiane con le difficoltà che sappiamo esserci in questo momento nelle sale, ma continua a procedere con il suo cammino. Tutte le informazioni del film le potete trovare sia sul sito dedicato al film ma anche e soprattutto sulla pagina Facebook e su OpenDDB. E questo appunto è il nuovo documentario che abbiamo firmato proprio come produzione, perché appunto noi come SMK Factory facciamo anche produzione di film da tanti anni. Per quanto riguarda invece la galassia OpenDDB, sicuramente vi segnaliamo con piacere l'arrivo in catalogo di Corpi Liberi, un film che seguivamo già da molto tempo, fatto già anche un percorso festivaliero per la regia di Fabio Massimo Lozzi. È un film che si incentra sul racconto del primo Pride studentesco, La Sapienza, organizzato nel 2018. Parte ovviamente dal racconto di quella vicenda e poi va a toccare tutta una serie di tematiche che sono legate alla narrazione del film. È un film molto bello che vi consiglio caldamente di vedere e che abbiamo deciso di distribuire contemporaneamente sia in sala che in streaming. Per quanto riguarda lo streaming invece, arriva finalmente in streaming Van Will Be Spectacular, il film che da settembre dello scorso anno abbiamo portato in anteprima assoluta italiana in Italia come distributori italiani dell'opera ed è il film che è stato realizzato con il supporto della Rojava Film Comuna, girato appunto in Kurdistan e che racconta attraverso il cinema di finzione, perché non è un documentario, è un film di fiction a tutti gli effetti, l'assedio di Sur del 2015, rimettendolo in scena in qualche modo, ma rimettendolo in scena non solo nell'odierno territorio curdo, ma anche coinvolgendo come attori le combattenti e i combattenti. È un film molto potente e vi consiglio di vedere, adesso finalmente è disponibile anche in streaming e lo trovate sul nostro catalogo. Vi segnalo anche l'arrivo in catalogo di Pino, Vita accidentale di un anarchico, per la regia di Claudio Cipriani e Niccolò Volpati. È un film che è uscito 2 anni fa nelle sale, quindi prima della pandemia, e da qualche settimana abbiamo accolto l'intera produzione della Ghiro Film, che è la casa di produzione che ha occupato di quest'opera. Ci sono molte opere, molti film interessanti in catalogo, abbiamo proprio aperto una sezione dedicata a loro. L'ultimo, o comunque l'ultimo in ordine di pubblicazione, che adesso abbiamo appunto proposto al pubblico di OpenDDB, è questo film dedicato a Pinelli, ovviamente, e quindi girato principalmente a Milano, con delle tecniche anche molto particolari di racconto, perché è un ibrido tra immagini di archivio, immagini ricostruite con delle tecniche anche di colorazione particolare, interviste e scene di ricostruzione. E è un film che consigliamo molto di vedere e che fa parte di quella tipologia di opere che noi amiamo avere in catalogo anche per quanto riguarda un percorso di memoria storica che sappiamo bene essere sempre fondamentale tenere aperto e tenere acceso e vivo. Per questo mese queste sono le proposte che vogliamo raccontarvi oggi qui in trasmissione, e sicuramente appunto ci risentiremo il mese prossimo con le novità di febbraio. Un abbraccio Paco, a presto! Grazie a voi, a presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.